Ciao, ti faccio qualche domanda, ok? Ok, ma ci puoi un po' parlare del centro del CIE e delle proteste che ci sono stati questi giorni o in passato nel centro? Le proteste, boh, per esempio sul cibo o contro l'espulsione? Io da sia di Roma, no? Comunque questi giorni quello da cibo, ora io quasi non vado alla mensa perché non posso mangiare, non c'è neanche sapore, né niente, quello che portano già pronto è chiuso una plastica sopra. Senza sale, senza sapore, sempre un pasta, stesso pasta e cambia pasta funghi, pasta dal pomodoro e poi il secondo un patatine, un patate fritte o qualcosa di due uova o un pezzettino di carne comunque fritto, no? Senza sale, senza olio, senza niente. Io quasi Sì, da sì, sì. qua sta trattando molto molto molto male. Io appena entrata me l'ha dato due shampoo, un pezzo di sapone per lavare vestiti, una dentifricio e una pastolino. È una ciabatta perché il nostro scarpe non posso mettere e c'è lacci, quindi loro si danno pure una scarpa senza lacci. Con questo non posso camminare perché si apri pure 2 giorni già da buttare perché la puzza di tremendo, tremendo puzza. Poi pure faccio stanze da 8 letti e bagno fa schifo. Noi laviamo, però devi capire 8 persone come vanno bagno noi come si fa a fare questo bagno. Non hai già water, quello che per sedere quelle vecchie modelli. Ok, e ascolta, ci puoi dire un po' se raccontarci delle proteste collettive contro questo schifo, contro questi muri? E voilà, ce ne sono state delle proteste, delle cose collettive per resistere? Sì, noi quando si cominciava da 2 o 3 settimane fa, 2 settimane, quasi 15-17 giorni fa, noi buttato materassi fuori, Sì. non è entrato nessuno questo giorno in cella, no? Giorni. Rifiutare di ritornare in cella. No, sì, non ho fatto venire nessuno di loro dentro, però loro domattina presto arrivatosi forza, loro arrivatosi forza e con Guardie. due carabinieri, con polizia, come si chiama questo, comunque con manganelli, con casco in testa, è arrivato quasi quarantina di persone, poi gente che paura no, è entrato in cella perché qua non posso fare tante cose, noi stanco di forza, nostra forza non c'è più perché tra mangiare e tra anche mentalità. Questo posto non lo so, sta proprio io quasi 6 mesi qua, da 8 gennaio fa, 22 gennaio fa qua a Roma, proprio 6 mesi, ora 5 mesi, 25 giorni, così. Sta parlando da quello di assistenza di Oxlum, pure loro cosa fai? Si vengono da aprire mattina le cancelle, poi alle 8:30 si colleziona 2 fette biscottate, un bicchiere di latte, un bicchiere di caffè, 2 fette di biscottate, un piccolo burro e un piccolo marmellata. È mattinata solo questo. Io non lo so, un ragazzo di 23, 24 anni, 25, 26 anni, se 2 fette di biscottate per colazione cosa fai con questo caffè lungo e latte di polvere, penso che latte di Certo. polvere. Poi Sì. aspetto per pranzo, pranzo portano, io sta 6 mesi qua stesso menù, e cambiando, riso, pasta, pasta, riso, riso, pasta, pasta, riso. Non hai mai avuto uno spaghetto 6 mesi? Un spaghetto non hai mai esiste. Peggio che in carcere, peggio che in carcere, che già fa Caldi, schifo. sì, caldere, almeno noi cucinato quello che noi compro, noi cucina. Qua, quando vado a parlare, rischio impartirti subito, questo, ma poco sicuro, sicurissimo. Anche quando loro si divisi, quello che arrivano nuovo, per esempio, in barca appena arrivata in Italia, loro mettono paura, voi fate cosette, rischio di andare in galera, rischio di rimpatriare. Come i ragazzi Appunto, sì, noi abbiamo sentito che qualche giorno fa, sabato, per riprendere la loro libertà, come succede negli altri CIE, in Italia, abbiamo saputo che a Ponte Galeria, sabato c'è stato un tentativo di evasione. Ci puoi, se lo sai, ci puoi raccontare? Sì, anche qua è successo quello giorno di manifestazione pochi giorni fa, prima di questo giorno ha chiamato la direzione di Oxlum per gruppi, ha messo paura, tu voi siete, non devi fare niente, rischio di galera, rischio di cambiare CIA, rischio di impazzire subito. Chi non ti fa queste cose, magari si esce di qua. Quello fatto direzione, proprio Xulum direzione, gruppi chiamato, fatto, messo paura. Fate dei casini, loro guardano telecamera e così, così, così, mettono galera, fanno rimpartire, rimpiattiare subito, poi. Quelle cose si dicono, voi non devi fare niente, devi stare tranquillo, se vuoi devi uscire. Comunque, quelle ragazze che arrivano nuovi, sono questi bugie, stanno tranquilli perché non lo sanno parlare italiano, non lo sanno niente d'Italia che cosa, e quindi loro aspettano questo benedetto permesso soggiorno o asilo. Quasi non arriverò mai. Non arriverò mai, io sto 6 mesi qua, quasi 10-12 persone uscito, non è sicuro asilo, come si dice, in attesa asilo, non lo so se Sì, dopo accetterai io o l'attesa non. asilo è prigioniero, Sì, sì, prigioniero, sì. sì, sì, sì. Volevo, perché volevo chiederti un po', contro le espulsioni, quando le guardie vogliono portare via qualcuno. Sì, Noi abbiamo qualcuno. sentito che c'erano delle proteste. Sì, quando vieni portare via mattina o sera, chiudono tutte le stanze, entrano quello che c'è, quella persona, vengono più di 12-13 persone per portare una persona. Io l'ho visto questo 6 mesi, 3 persone pure in manette. Portato via da qua, neanche lasciato lavare sua faccia, era in dormi, la metto manette, poi portato via. Ok, Poi e quando una persona resiste, sappiamo bene che picchiano. Sì, una persona che è ancora qua, lui non voleva andare via, un po' stato assistere, non andare via, è picchiato, picchiato, poi non portato stesso giorno qua, dopo giorno portato. Lui non la sa neanche dove è portato, lui dice un tipo di galera, io l'ho visto a miei occhi, segni tutta la sua forza. Un ragazzo sudamericano, io non lo so preciso quale paese, di più, un ragazzo davanti a noi ha battuto testa a non partirsi, un nigeriano, ha aperto sua fronte e proprio ha ferito, ha legato mani indietro, ha portato una. Come si chiama? Un carrello di quello di Ponte do Corso è portato via stesso anche lui. Ok. Una cosa non, come io non lo so neanche così senza permesso soggiorno non posso non è una condanna una come si chiama? Una condanna pure con botte con tanti tanti parolacce, con tanti loro urlo, voi non mangiare, non mangiate, quelle cose, perché è arrivato Italia, perché sei arrivato devi fare quello che dicono noi, qua comandano noi, Sì, tante eh parole sì, razziste, razzismo. razzisti, questo. Anche pure queste cose dicono, comando qua noi pure di Meditore di Oxlum, ha sentito me, io litigato con loro, pure con questo, no, non posso dire tu comanda qua, tu, grazie a me, io, tu mangia, perché tu prendi un stipendio, grazie a voi, quindi voi vergognate. Comunque loro non mi interessa cosa dicono, e quello che vi parlano più loro vado a dire, guarda questo ragazzo devi impazziare subito, devi fare qualcosa subito, perché lui ha i problemi dentro. È così. Ok. Quando noi aprono per mensa c'è i carabinieri, polizia davanti noi con due cani di guardia, come portano per andare a mangiare mensa noi devi passare questa gente. Qualcuno si arriva patito, hanno paura di patito perché si vede queste persone con due cani gridano davanti a noi quando passano per la mensa. Io non lo so come dici questo diritti umani, non c'è niente, diritti sanitari, diritti umani, niente. Non posso tenere un accendino, non posso tenere una penna. Per scrivere il mio caso, per me non posso tenere. Per iscrivere devi andare dentro di Oxlum, qualcuno di loro, psicologo davanti, psicologo iscrivere. E voilà, e volevamo dirci che siamo là con voi, con tutta la nostra rabbia, e speriamo che questi posti li distruggiamo. Ci richiamo Sì, dopo. ti ringrazio di chiamato.